Zolt. Zolt. Fulminati in azienda. Gnafamo quest'anno, non la possiamo fare, la gente in azienda è sempre più demotivata. Non ti lamentare, c'entri, sei l'unico quest'anno che ha avuto una nuova risorsa disponibile. Ah, una nuova risorsa, un subalterno con 20 anni di anzianità che ha deciso, tra l'altro, da 20 anni non fa niente, sì, proprio vabbè, niente. Aspetta un attimo, scusa, schedula, ma chi gli avete dato? Ramarri. Ramarri è il fancazzista, vorrei specificare. Quello perché? Della serie, sono pagato per timbrare, non per lavorare. Oh, hai fatto bingo, c'entri, ecco. Eh? E tu lo sai perché mi avete dato? Vuoi sapere perché non vuole nessuno? Ecco, e mo? E mo, Centrifuga, è tua responsabilità in quanto manager quella di rimotivare le persone alle tue dipendenze. Sì, vabbè, e a me chi me motiva a motivare? Vedete, il problema è che dall'indagine di clima che abbiamo fatto è emerso che in tutta l'azienda c'è una grandissima demotivazione. Interessante, che c'era bisogno di analisi di clima? Mo chiedevi o te lo dicevo io? Insomma, la domanda resta sempre quella. Chi me motiva a motivare il fan cazzista? Chi? Centrifuga, ho un'idea. Perché tu non partecipi al corso che ho organizzato per tutti i capi della nostra azienda con il grande coach americano Donald Jump, che ci motiverà a motivare i nostri collaboratori? Brava schedula, bella idea, mi piaci. Del resto, dietro a un grande manager c'è sempre un grande coach. Sì, e dietro a un grande coach te lo dico io che ci sta. E allora ragazzi, sono io il vostro Donald Jump, il vostro coach che vi insegnerà come motivare i vostri collaboratori. Wow, intanto tutti in piedi, diciamo all together, tutti insieme, yes we can. Yeah, yeah. Lo dobbiamo dire? Certo, dobbiamo dire, dai. Yes we can. Più forte, non ho sentito vostra voce. Yes we can. Sentite che grande energia in questo gruppo. Uno più uno più uno non fa mai tre. No. Quanto fa, scusa? Non capisci la metafora. Prima di tutto ricordate, in ogni collaboratore c'è una grande energia, la vostra. Siete voi che trasferite vostra energia ai vostri collaboratori. Wow. Coach, mi scusi, mi è sfuggito il passaggio. Non ho capito sto fatto da energia. Cioè, sta dentro ai collaboratori o ce la devo avere io, che sono il loro capo, pure per loro? Il collaboratore Centri è motivato se si fida del suo capo. E allora, siccome hai fatto questa domanda, tutti insieme con te facciamo gioco della fiducia. The trust. Centrifuga, in piedi sulla sedia. Girati di spalle. Aspetta un attimo, che qui è Arto. Dai. E al mio tre, lasciati andare. Bello. Fidati. Ma siete pazzi. Tutti voi dovrete tenerlo. Certo. Pronti? Oh, mi raccomando. Certo. Tranquillo, pare. Dai, aiutaci. Pronti? Pronti. Uno, due, tre. Ai, cervicale. Oh, mi sono sfondato. Cervicale, ma pesi due quintali. Altro che gioco della fiducia. No, ma scusate, io mi sento già trasformata. Sì. Non sentite pure voi una grande energia? Centri, ma lo sai che è veramente una faccia nuova. La faccia è nuova perché mi sono sfregiato schiantandomi sulle sedie. Ma no, è l'energia. A fonte, allora, adesso che vi sentite già cambiati, io vi spiegherò come rimotivare i collaboratori in azienda. Fantastico. Prendiamo un caso, il caso Ramarri. Quali sono le caratteristiche di questo profilo? Beh, Ramarri, potremmo dire che Ramarri è una persona introversa, basso potenziale e basso profilo, un normotipo. Ma che normotipo? Che normotipo e basso profilo? È un raso terra, sì, coach. Sì, ma poi coach è grigio, veste sempre di grigio, anche il capello grigio, è proprio... E tu, Centrifuga, tu che hai Ramarri come subalterno, come lo vedi? Chi lo vede? Sta sempre imboscato. Allora, Centri, regola del buon motivatore è questa. Regola numero uno, impara i quattro step della motivazione della persona. LMFM. Listening, mirroring, feedback and mobilizing. No, calma, che bisogna scrivere. Aspetta, coach. Prendi appunti. Poi, regola fondamentale... Feedback a pioggia, sì. Quattro feedback positivi per miglioramento. Guardi, ecco, Ramarri, non funzionano queste cose, non funziona niente con Ramarri. Il feedback centrifuga è la parte dello stroke, della carezza ai collaboratori. La carezza. La carezza. Sì. Ma che è un peluche. Allora, Ramarri, famo air listening, eh? Ma hanno detto che te devo ascoltare in modo ascolto, eh? Dimmi, parlami, fammi capire, parla, di qualcosa. E cosa vuole che le dica? Io te devo ascoltare, Ramarri, parla, se non parli che t'ascolto? Quindi parla. Ma io e lei abbiamo qualcosa da dirci. Lascia fa. Allora, che te serve? Che bisogni c'hai? E più soldi. Ecco, aspetta un attimo, i 3 minuti sono passati, più o meno, ecco qui, t'ho ascoltato. Adesso famo air feedback, te do un bel feedback positivo. Sei bello, bravo, buono, eh? Adesso però mi ascolti, Ramarri. Mettete a lavorare. Te devi mettere a lavorare. Hai rotto, Ramarri. Fammi vedere che lavori, che non sei un parassita. Perché todo io st'aumento di stipendio. Lo sai dove metto st'aumento di stipendio? Lo vuoi sapere st'aumento di stipendio dove metto? In busta paga. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.